mai col pensiero offesi il tuo pecoro, svelami di tua man, contento io muro. Ai carnefici infame destinata e calunna, or vanne, Filippo, vanne, e con gli occhi suoi paghi l'errore che fe suo scopo.